E si alza al sipario, 103.1 a teatro, inaugura la stagione 2023-2024 all'ITC Teatro. E sarà per sabato 4 novembre non solo, alle ore 19, Via del Popolo. Poi vi saranno anche incontri, perché no, anche un pranzo incontro col protagonista Saverio La Ruina, che ho contattato per una conversazione a proposito di Via del Popolo. Che è Via del Popolo? Beh, è una struttura intanto molto originale per quanto riguarda l'aspetto di tempi all'interno dello spettacolo all'ITC. Abbiamo un passo diverso in questa passeggiata in Via del Popolo. Perché? Perché tante cose stanno cambiando. Vediamo che l'economia ha portato la piccola identità a essere soppressa da una grande distribuzione e automaticamente purtroppo questo ha anche influito nell'urbanistica, oltre che nelle tasche di piccolissimi imprenditori con questi negozi o botteghe che davano la possibilità di dare, oltre che un sostegno e qualcosa di più rispetto a una grande distribuzione, qualcosa che ci rendeva più partecipi alla stessa quotidianità e all'incontro, all'arte, alla cultura, in quanto una passeggiata in Via del Popolo, come doveva essere ai tempi, è qualcosa di diverso rispetto a quello che invece ci ritroveremo nel quotidiano. E magari non ce ne accorgiamo nemmeno, perché certe trasformazioni vengono portate con una sorta di anestesia dovuta al consumo, ma sono tra le tante riflessioni che porta questa camminata con i due personaggi che troveremo all'ITC Teatro. Intanto io direi di iniziare i motivi di conversazione con il protagonista Saverio La Ruina, che ci dirà qualcosa di più a proposito dello spettacolo di inaugurazione sabato 4 all'ITC Teatro e altri motivi di incontro per quanto riguarda la domenica, ovviamente 5 novembre. Inaugura la stagione 2023-2024 l'ITC Teatro in Via delle Rimembranze a San Lazzaro di Savena. Inaugura con un percorso, anzi un doppio percorso, e scopriremo come, quando e perché insieme al nostro protagonista qua al telefono con noi per la rubrica In Scena. Lo spettacolo è Via del Popolo e siamo con Saverio La Ruina, al quale do il buongiorno. Buongiorno Saverio. Eccoci, buongiorno a voi. Ho parlato di uno spettacolo con un doppio percorso nel tempo, anche nello spazio, anche nell'economia se vogliamo. Questa Via del Popolo, che sorprese riserverà alle spettatrici e agli spettatori per l'inaugurazione di ITC Teatro? Ma io spero intanto di lasciare delle domande su quel tema che poi viene trattato. Questa Via del Popolo è una via che viene, diciamo, percorsa in due momenti di questi ultimi decenni, uno attuale, un altro qualche decennio fa, in cui era una strada piena di attività commerciali, artigiani, bottegucce e tutta questa roba, diciamo, a distanza di qualche decennio, poi con la globalizzazione che è stata sempre più forte, alla fine tutte quante queste bottegucce, tutte queste attività sono state chiuse e quindi si crea una specie di spoon river veramente delle figure che hanno abitato questa strada, che allo stesso tempo, insieme a tutte queste attività che brulicavano all'interno di questa via, significavano anche relazioni umane, contatti, esperienze, insomma anche calore, cioè tutto questo che chiaramente viene visto anche in modo non nostalgico, perché poi il mondo va avanti, però pone una riflessione, cioè prima c'era in qualche modo comunque una rete di relazioni umane che erano anche, che riscaldavano le vite delle persone e che le proteggevano anche. Oggi in questa stessa strada troviamo soltanto solitudine, che poi rispecchia la solitudine spesso dell'uomo contemporaneo, che si trova in un universo appunto dove le relazioni sono tutte quante recise. adesso siamo arrivati allo scempio, perché altro non è che uno scempio dell'ordinare online, online. Già il grande centro commerciale è qualcosa che a me porta a uno stordimento negativo e una dispersione, un aspetto oltre che algido, figuriamoci con l'ordinare online. Ah, ma trovo tutto, bravo. Questo ha portato un allontanamento, non solo un problema economico, e ha portato anche un distacco per quanto riguarda la relazione, per anche la personalità di quello che è il consumatore e dell'aspetto di chi propone la vendita. La specificità di tutto questo è diventato molto molto distaccato. Non lo dico solo perché ho grande fragilità nell'aspetto di nozioni digitali, quella è roba da ridere, quello si impara. È tutto il resto che mi allontana dal e-commerce, come si suol dire, o la dispersione all'interno del grandissimo centro commerciale. La realtà di acquisto nel motivo, come viene riportato da uno dei personaggi di Via del Popolo, è ben diverso. Mi sono venute in mente tante passeggiate per Bologna per raggiungere il negozio di dischi o per raggiungere la libreria, e questo portava a incontrare, a dare attenzione alla stessa città in maniera più attenta, più approfondita, diventava una compagnia stessa, faceva da compimento totale per quella che era il momento dell'acquisto, che molte volte veniva disatteso, era quasi più importante tutto il contorno che l'acquisto stesso. Da operaio, quando poi arrivava il sabato, ecco, l'appuntamento alla mattina già dall'apertura era al Disco d'Oro, e ovviamente ci si fermava poi a chiacchierare. Molte volte telefonavo a casa: no, non vengo a casa a pranzo, resto fuori con gli amici. Una delle tante riflessioni, ma ve ne sono diverse anche per quanto riguarda lo sguardo alla città, ma ne parleremo nel percorso e nel processo di Via del Popolo per lo spettacolo di Saverio La Ruina, che sarà sabato 4 novembre alle ore 19 all'ITC Teatro. È una produzione scena verticale di e con Saverio La Ruina, la collaborazione alla regia di Cecilia Foti, audio e luci di Mario Giordano. Ricordo che sabato 4 novembre, sempre in seguito alle ore 20:30, l'incontro Memoria e Comunità, ce ne parlerà Saverio a breve, e poi domenica 5 novembre alle 12:30, a proposito di pranzo, Circolo Arci di San Lazzaro, e si mangia molto bene, faccio teatro, pranzo e incontro con Saverio La Ruina. Questa è l'apertura di ITC Teatro, Via delle Rimembranze a San Lazzaro. Riflessioni tante, anche su un aspetto che può sembrare di contorno, ma che di contorno non è. A proposito di città dalla media e dalla grandezza importante, città che sembrano più uguali ognuna all'altra per via, certo, appunto anche di questi aspetti dovuti alla globalizzazione. Questo è una realtà che dalle riflessioni che mi ha portato Via del Popolo. Un altro è il dualismo che viene nel percorso tra i protagonisti. Uno impiega poco tempo, l'altro invece ha una passeggiata più corposa. Sì, perché in qualche modo io in questo spettacolo faccio anche un'opera magica, faccio resuscitare quelli che erano anche tanti personaggi che vivevano in questa strada, che io ho conosciuto bene, che hanno animato e dato anima alla strada e alle persone anche che ci si relazionavano, e chiaramente qualcuno ancora in vita. Quindi in qualche modo invece l'uomo che la percorre con un tempo, diciamo, infinitamente più piccolo, è proprio perché non si trova quasi mai nessuno di fronte. E quasi mai nessuno di fronte, se mai ne incontra qualcuno, non c'è neanche una relazione, perché sono spariti i luoghi della relazione. Quindi, insomma, dando questo passaggio alla microeconomia, alla macroeconomia, poi un discorso non è soltanto economico, ma diventa profondamente umano. Poi all'interno, diciamo, del lavoro, chiaramente c'è tutta quanta una formazione anche del protagonista, e poi in questo caso sarei io, che una formazione anche sentimentale, umana, politica, perché anche quelli che sono dei momenti importanti della vita, della storia italiana, in qualche modo vengono, hanno i loro riflessi in questa cittadina. Poi, come dicevi tu, è un fenomeno che investe in fondo in piccole e medie città, ma se vogliamo anche le metropoli, le grandi città, dove i quartieri sono profondamente cambiati e anche là questo tessuto umano si è disgregato. Questo Rare Groove Afro Dream di Sir Williams di Portis, riportato dalla rassegna Jazz Business. Business, scritti in maniera contratta e più da slang. Ho voluto portare un paio di brani proprio da questa rassegna perché, oltre che l'originalità del funky groove che stiamo ascoltando, già dal titolo, il business. ITC Teatro con Radio Città Fugico, con la compagnia Teatro dell'Argine. Ringrazio direttori, direttrice artistica Michaela Casalboni, Nicola Bonazzi, Andrea Paolucci, e anche la collaborazione con Giulia Pompili dell'ufficio stampa per quanto riguarda la stagione, che già noi poi seguiamo anche nelle stagioni precedenti con la rubrica In Scena e non solo. L'inaugurazione quindi vi sarà ufficialmente domani, sabato 4 novembre, con la Via del Popolo. Già dal nome, il riportare attenzione a diverse sensazioni su questi cambiamenti, tra cui appunto un'uguaglianza sempre più costante con i marchi, con le grandissime distribuzioni, con una convergenza sempre più univoca in nome della globalizzazione, molto più simili, per dire, grandi città, perché appena arrivi non trovi altro che queste grandi realtà di vendita e di commercio che sono tutte uguali. Sono più simili due grandi città nella periferia, esattamente identiche, tra l'altro, perché non troviamo altro che centri commerciali e via discorrendo, e quasi c'è più diversificazione nelle piccole realtà di provincia. Sono molto più diverse Loreo e Ariano nel Polesine che Bologna e Roma oramai. We'll be right back. ovvio, sto portando un'esagerazione. Per quanto riguarda poi l'aspetto periferico, è diventata uniforme, assolutamente una continuità dovuta a questa mancanza di eterogeneità con la scomparsa delle piccole attività. In Via del Popolo, per Saverio la ruina, continuiamo i nostri motivi di conversazione perché ve ne sono parecchi, eh. Aggiungo un altro aspetto, vedi che poi a parlare vengono in mente emozioni, figurati ad assistere allo spettacolo, e quindi a parlarne abbiamo detto i percorsi, no? E già nelle attività per raggiungere le necessità o anche, perché no, il momento di aggregazione, anche di svago nel percorso e impiegare più tempo, si ha la possibilità di incontro e anche di trovare luoghi nascosti della nostra città che non diventa più quotidianità da trascurare, ma diventa assolutamente un aspetto che ci accompagna, che ha magari delle cose, dei piccoli gioielli, delle sorprese che proprio in quel percorso, se non lo facciamo frettolosamente, riscopriamo, oltre che incontrare. A volte, cioè, faccio un esempio, a volte sono uscito per acquistare un disco, sono tornato con due dischi che non erano quel disco che volevo prendere, mi sono fermata a mangiare fuori con un amico. Ecco. No, ma infatti, perché poi sì, esattamente, poi la declini in tanti modi, nel senso che noi, per dire, parlando proprio del tempo, perché anche una grossa riflessione sul tempo, poi lo spettacolo stesso, che torna in varie situazioni ad essere vissuto in modo diverso, ma se noi pensiamo delle volte che siamo in una sala d'attesa per qualche motivo, che sia dal dentista o dal notaio, chi che sia, a un certo punto cosa facciamo? Prendiamo il nostro telefonino nell'attesa e cominciamo a controllare delle cose o comunque a distrarci con quelli che sono i contenuti del dispositivo. E io, se penso anche alla mia vita, in tante sale d'attesa, insieme alla noia, che tra l'altro spesso è corroborante, ho fatto anche incontri, ho visto, poi da artista se vuoi, ho visto anche situazioni, figure che mi sono riportato poi all'interno dei miei lavori. Che bella cosa che hai detto, la noia corroborante, la condivido in pieno, guarda. E facciamo di tutto per, anzi, appena l'abbiamo, invece di farci i conti, di entrarci dentro, di vedere cosa ci porta, in realtà la sfuggiamo, quindi è diventato qualcosa di cui non vogliamo assolutamente, certo, vogliamo averci, no, a che fare. Mai guai, infatti, e invece molte volte è motivo di ispirazione e non solo. Intanto con Lalo Schifrin ci dà uno stacco musicale con Wrong Number, il numero sbagliato, no, a quanto pare ho fatto il numero giusto per questa piccola sorpresa, sperando di non aver interrotto la quotidianità di un indaffarato Paolo Zanardi, che ricordate già con noi al Mood Groove per diversi motivi approfondimento. Beh, per la rubrica In Scena è interessato, dice, accidenti, che argomenti e quanti spunti di riflessione. E intanto do il buongiorno a Paolo. Buongiorno. Grandissimo Willy, che piacere di sentirti e soprattutto sentirti parlare con così tanta competenza di un argomento che mi appartiene da quasi 30 anni, di più, 30 anni, perché la mia professione è quella principale di non parlare di basket, ma appunto di trattare e fare il consulente nell'ambito del retail. Quindi ho ascoltato con grandissimo interesse, devo dire, mi hai sorpreso positivamente, complimenti. Grazie caro, ricambio i complimenti anche per la tua professionalità. Esattamente di cosa ti occupi allora, visto che proponiamo questi motivi legati al lavoro e all'economia, il cambiamento con la globalizzazione, come e quali riflessioni ulteriori si possono aggiungere a tutto ciò, Paolo? Ma la mia società, rimanendo chiaramente in superficie, perché non è lo scopo oggi di fare pubblicità, la mia attività si occupa principalmente di fare consulenza, formazione e sviluppo nell'ambito del retail. Il retail, tradotto semplicemente in italiano, vuol dire vendita al dettaglio, ovvero le aziende che si rivolgono al sottoscritto alla mia società cercano un partner che possa aiutarli a migliorare il servizio, la presenza sul territorio. E nel mio caso, forse venendo incontro a te, al discorso che avevi detto prima, anche, non dico a contrastare, ma quantomeno a convivere con la vendita online, perché io mi occupo di retail, però quello che viene detto in gergo retail fisico, ovvero i punti vendita, e quindi certo, le persone che lavorano al loro interno, che devono essere preparate a un mercato che negli ultimi 5 anni ha avuto un cambiamento pari ai 25 anni precedenti. Cioè, in 5 anni pensa un po', ecco, è successo tutto quello, come a livello di cambiamento, che è successo nei 25 anni precedenti, tra pandemia, la ormai esuberante e scomoda presenza dell'online. Ovviamente il retail fisico, per poter tenere botta, come diciamo noi a Bologna, deve per forza passare da una serie di attività che intervengono sulla professionalità e lo sviluppo delle risorse umane che sono nei negozi. Quindi io sono un grandissimo paladino e un grandissimo difensore di tutti quelli che lavorano sui punti vendita, perché è un lavoro oggi che deve essere degno della stessa, diciamo, qualifica e dignità di qualunque altro mestiere. Una volta, quando io ho iniziato a lavorare nel negozio 30 anni fa, al tempo da footlocker, mi ricordo che incontravo alcuni amici ignari che mi dicevano: sei finito a lavorare in negozio, come dire, sei finito nella discarica. Sì, infatti, dispregiativo. Esatto, in realtà chi lavora in negozio, se interpreta questo ruolo nella maniera giusta, offre una competenza, una professionalità che è molto più utile, interessante e interattiva rispetto a qualunque acquisto online. Ah, sicuramente, di questo, guarda, ne siamo assolutamente concordi. Puoi non dire che, insomma, adesso certo la tua attività, ma sei stato un ottimo cestista, quindi non svalutare anche il tuo passato. Io ti ringrazio tantissimo, scusami, ma queste sorprese personalmente, a me, lo dico in maniera egoista, piacciono tantissimo. Spero di non aver interrotto nulla di particolare. No, ascoltavo con interesse la tua trasmissione e ho colto l'occasione peraltro per salutarti via WhatsApp e ricordarti che oggi è purtroppo venuto meno un grandissimo giocatore, Walter Davis. L'ho riportato, sì, è al Muto Groove, ne faremo una biografia, insomma, nella prossima puntata. Magari avremo contatto telefonico anche per il Muto Groove della prossima settimana. Grazie. Cestista, professionista e redattore dei 103.1. Grazie Paolo. Grazie a te, Willy. Ciao. Ciao. Allora, adesso abbiamo parlato di emozioni, di struttura dello spettacolo, parliamo anche di incontri che ovviamente trovano estesa la situazione, perché domenica 5 novembre alle ore 12:30 al Circolo Arci San Lazzaro faccio teatro, pranzo e incontro con Saverio La Ruina. Intanto ti dico che al Circolo Arci di San Lazzaro si mangia divinamente. Questo... Si prendono il tempo di fare una buona cucina di creare relazione attraverso la cucina, ecco, come le nostre mamme quando c'era un invitato, come dire, insomma, era un evento da trattare con cura. Sì, certo, immagino, sentendo l'accento poi capisco ulteriormente. E aggiungo, oltre che la mia golosità che è proverbiale, i contenuti dell'incontro, faccio teatro, di cosa si parlerà, immagino, ma più nel dettaglio. Ma guarda, faccio teatro e proprio, come si dice, l'incontro con l'artista, quindi sarà molto legato a quelle che saranno le curiosità dei ragazzi, e sarà più anche, diciamo, legato alla professione, alla poetica, questo percorso. Interessante allo stesso tempo è anche la sera stessa, dopo lo spettacolo delle, infatti si tiene alle 19 perché poi dopo ci sarà, se non sbaglio, un aperitivo, a seguire un incontro con Oliviero Ponte di Pino e una grande urbanista, Emilia Romagna. Mi trovo in un momento in cui non ho sotto gli occhi il nominativo, magari ce l'hai tu. Erika Capasso della Fondazione per l'Innovazione Urbana. E quindi nella discussione viene affrontato questi temi di cui stiamo parlando interni allo spettacolo proprio da una grande esperta di urbanismo. E questo, per esempio, per dire, è una cosa che stimola anche me, perché da un lato tratto questo tema nello spettacolo, ma lasciando in fondo delle domande, no? Poi come alla fine riuscire a risolvere i problemi dello spopolamento nei piccoli centri di questa di queste aree urbane, anche metropolitane, che cambiano completamente natura e rischiano di diventare delle cose senza carattere o senza personalità. Queste risposte poi spettano veramente agli urbanisti, agli economi, alla politica, no? Che non siamo in buonissime mani, ma diciamo che poi al nord, in Emilia Romagna, è già una realtà che ha attivato delle cose interessanti. È necessaria un'attenzione per tutto ciò. Però non è mai sufficiente. È necessaria, è indispensabile, non deve essere trascurata. Per cui è l'invito che oltretutto mandiamo sia alla cittadinanza che alle istituzioni. Più sensibilità da una parte e più concretezza sempre dall'altra, anche se a volte le stesse istituzioni sono cittadini, quindi le due cose dovrebbero essere in simbiosi. Dipende se lavori per te, lavori per il momento, se lavori per il futuro delle persone e lavori veramente per la gente. La classe politica di questi ultimi tempi non è stata assolutamente all'altezza del compito che aveva. Confermo. E grazie a Saverio La Ruina, che inaugura la stagione 2023-2024 dell'ITC Teatro con Via del Popolo, spettacolo sabato 4 novembre alle ore 19. Il sabato stesso ci sarà alle 20:30 all'ITC Lab Memoria e Comunità l'incontro. Saverio dialoga con Erika Capasso della Fondazione per l'Innovazione Urbana e anche con la moderazione di Oliverio Ponte di Pino, con la conclusione che sarà però domenica con un pranzo al Circolo Arci San Lazzaro alle ore 12:30. Faccio teatro, pranzo e incontro con Saverio La Ruina. Io ti ringrazio tanto per questa nostra conversazione e bella. Ci troviamo a San Lazzaro. Come no, con grande piacere. Grazie Saverio. E vi aspetto. Grazie. Abbiamo incontrato un amico, anzi abbiamo incontrato due amici, Saverio La Ruina e Paolo Zanardi, che già abbiamo conosciuto con il Move to Groove del Breakfast Club sui 103.1. ITC Teatro inaugura la stagione e quindi appuntamento in Via delle Rimembranze, Compagnia Teatro dell'Argine, lo spettacolo sarà Via del Popolo, pubblicità, poi si ritorna con In Scena. Porta al palcoscenico Radio Città Fujiko. A tra poco.